GR24, il sole 24 ore. Bossi scettico sull'abbandono di Berlusconi alla guida del PDL. Esodati, lo stop di Confindustria, la tassa del 3% sui ricchi è iniqua. Terremoto dell'Aquila, nuove intercettazioni coinvolgono Bertolaso. 43 milioni di danni allo Stato, citati in giudizio Bassolino e Bordon. Buona giornata dalla redazione, da Katia Caramelli. Umberto Bossi si dice scettico sull'abbandono di Silvio Berlusconi alla guida del PDL. L'ex premier ha annunciato le primarie per il 16 dicembre e all'interno del Popolo della Libertà è già scattato il toto nomine. Alcune candidature sono già ufficiali, come quella di Daniela Santanchè e Giancarlo Galan. Tra i formattatori ancora non è stato deciso chi si candiderà. L'annuncio delle primarie giunge alla vigilia, tra l'altro, delle elezioni regionali siciliane, che potrebbero condizionare il dibattito all'interno del partito. Il leader dei formattatori e sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo, al microfono di Valeria De Rosa. Bene o male, i due scenari sono ovviamente tra di loro diversi per le conseguenze politiche che potranno avere. Il fatto però di avere anticipato con il metodo delle primarie un modo per indicare, scegliere la prossima classe dirigente è stata una buona mossa. In questo senso voglio anche sottolineare che Berlusconi è stato ancora una volta più avanti degli altri. Una battuta può essere, spero che altri lo raggiungano in questa scelta, e quindi al di là di quello che succederà domenica, sicuramente è snodo importante, inutile nasconderselo, però l'aver messo in campo le primarie prima come metodo già indica, disegna una prospettiva che comunque tiene all'interno di un perimetro costruttivo quello che succederà nel centrodestra. Il punto di Stefano Folli. Erano ormai in tanti nel centrodestra a chiedere a Berlusconi di formalizzare il ritiro dalle competizioni elettorali, e ora tutti, da Alfano al leghista Maroni, sono contenti. Ma il binomio PDL-Lega, che ha dominato per anni l'Italia politica, oggi pesa insieme e non c'è ancora una nuova alleanza tra il 21 e il 24% dei voti, troppo pochi davvero. Ma proprio queste cifre così modeste hanno determinato senza dubbio la scelta ufficiale di Berlusconi. La sua presenza sulla scena pubblica non era più un catalizzatore del consenso, ma un fattore respingente. Resta il fatto che il centrodestra oggi è una barca alla deriva, e non basteranno le primarie organizzate in fretta per metà dicembre a imitazione del centrosinistra a colmare il vuoto. Tuttavia non c'era altro da fare. In attesa di un nuovo Berlusconi, che non c'è e non ci sarà, si tratta di organizzare l'esistente. Tanto più che l'area moderata, un leader potenziale, e si intende tutto virtuale, l'area moderata l'ha già trovato nel profilo europeista di Mario Monti. E alle primarie nel centrodestra sarà dedicata la puntata di Italia in Controluce alle 13.30. Intanto prosegue lo scontro nel PD sulle primarie. In diretta Elisabetta Fiorito. Sì, primarie sempre più accese nel centro-sinistra Catia, dopo che la segretaria storica di Pierluigi Bersani, Zoia Veronesi, è stata indagata per truffa aggravata, un provvedimento per il quale lo stesso segretario PD chiede che la magistratura accerti i fatti. E Bersani questa mattina commenta anche le primarie decise dal centro-destra, è una buona notizia, dice, vuol dire che le primarie sono contagiose, abbiamo segnato una strada. Poi Bersani lancia una provocazione, adesso aspettiamo quelle di Grillo. Ieri con il segretario del PD ha scherzato anche il premier Mario Monti nell'incontro sulla legge di stabilità, fra un po' di mesi sarà il mio posto, avrebbe detto Monti a Bersani. In un'intervista al Fatto invece parla l'antagonista Matteo Renzi, è una fase delicata, dice il sindaco di Firenze, ci giochiamo molto nelle prossime ore, ma non sono preoccupato, gli ultimi 10 giorni della campagna elettorale li abbiamo già preparati e abbiamo sorprese, faremo il botto, assicura Renzi, che poi risponde a chi l'accusa di voler spaccare il partito, non lo sopporto, al PD voglio bene davvero e ripeto sempre che se questa mia avventura non dovesse trasformarsi in una vittoria sono pronta a dare una mano senza premi di consolazione. Sul manifesto parla invece il terzo competitore, Nichi Vendola, che si paragona a Davide contro due Golia. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Esodati, arriva lo stop di Confindustria, la tassa del 3% sui ricchi è iniqua. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, una tassa sui ricchi per finanziare il fondo esodati, un prelievo del 3% sopra i redditi oltre 150.000 euro. Questo è l'emendamento passato ieri in Commissione Lavoro della Camera, sul quale il governo è stato abbattuto, una misura che però non piace affatto a Confindustria. Si tratta di un'imposta alquanto iniqua, commenta il vicepresidente degli industriali Aurelio Regina, perché si aggiunge ad un prelievo analogo ancora in essere previsto dal decreto Salva Italia e perché colpisce, dice Regina, una fascia di popolazione che è l'unica che spende, minacciando ulteriormente i consumi. Frena anche il PDL, ieri non presente con il suo componente in commissione lavoro. Non siamo stati consultati, dice il capogruppo del PDL Cicchitti, e non condividiamo la soluzione individuata sul problema esodati. Per Bonanni della CISL invece si tratta di una soluzione credibile, d'accordo anche la leader della CGIL Camusso, secondo la quale è giusto chiedere di contribuire a chi ha di più in questo paese. Ma ricordiamo che si tratta di una proposta che dovrà essere esaminata dalla commissione bilancio di Montecitorio, poi dall'Aula e poi ancora dal Senato. Quindi tanti passaggi e possibili modifiche. E da Roma è tutta, voi la linea. Grazie Alessandra Schepisi. Il cuneo fiscale, il peso di tasse e contributi sulla busta paga che appesantisce il costo del lavoro, debutta nel cantiere della legge di stabilità. In Parlamento si sta studiando un intervento per alleggerirlo. Gli italiani, complice la crisi, riorganizzano il budget familiare. Le famiglie sono sempre più a caccia di offerte speciali e cercano di tagliare il più possibile le spese superflue, ma anche di risparmiare sul carburante. E quanto emerge dall'osservatorio Censis Confcommercio sul clima di fiducia ed aspettative delle famiglie italiane nella seconda metà del 2012. E le retribuzioni contrattuali orarie a settembre frenano, salendo solo dell'1,4% su base annua dall'1,6 di agosto, mentre su base mensile restano quasi ferme, più 0,1%, lo rileva l'Istat. Il dato tendenziale rimane sotto al livello di inflazione annuo dello stesso mese, più 3,2%, con un divario che si allarga a 1,8 punti. Ancora a cassa integrazione per gli oltre 2.000 lavoratori di Fabbrica Italia Pomigliano, che si fermeranno dal 26 novembre al 9 dicembre. Le tute blu dello stabilimento della Nuova Panda lunedì 29 ottobre cominceranno altre 2 settimane con rientro il 12 novembre. E ora l'andamento dei mercati finanziari con Deborah Rusciani. L'apertura per l'Europa era stata negativa, poi cambio di direzione, indici tutti in rafforzamento. Particolarmente rilevante il progresso di Parigi e Francoforte, che segnano più 0,54 e più 0,57% rispettivamente, più tranquilli invece Londra e Milano, più 0,2% la prestazione di queste altre due piazze. Peraltro Milano pure era arrivata a guadagnare oltre mezzo punto, poi ha improvvisamente rallentato il passo. Mercato che guarda come sempre alle condizioni della Spagna, alle novità che arrivano dalla Grecia, alle novità che sono arrivate ieri sera dagli Stati Uniti con la decisione della Banca Centrale Americana di mantenere inalterati i tassi di interesse nel range su cui sono fermi dal dicembre del 2008, tra lo 0 e lo 0,25%, e la Fed promette rimarranno a questo livello ancora a lungo. Piazza Affari, gli investitori oggi puntano sul settore del lusso, Tod's, Luxottica, Salvatore Ferragamo, da stamattina in assoluto i migliori della seduta. Più 2% la prestazione media di questi tre titoli, in attesa stasera che Luxottica comunichi i suoi dati di bilancio. Oggi arriveranno molti dati dagli Stati Uniti, il focus americano è fondamentale anche perché siamo ormai in procinto naturalmente delle elezioni americane, per cui la borsa guarda anche a questo, e oggi ci saranno soprattutto i riflettori puntati sugli ordini di beni durevoli e sulle altre trimestrali, tra cui quella di Apple. Spread fra BTP e Bund stamattina a 322. Punti base, tutto. Grazie a Deborah Rusciani. E l'Ohio sembra lo stato che sarà decisivo per la riaffermazione di Obama alla Casa Bianca. A 12 giorni dal voto, secondo il Time, il presidente avrebbe 5 punti di vantaggio, 49% a 44, nei confronti con Romney, proprio nello stato che sembra sempre di più l'ago della bilancia di queste presidenziali. Da non trascurare il gender gap. Per Obama si schiera il 56% delle donne e il 42% degli uomini. Primi sondaggi nel post dibattito elettorale di lunedì. Barack Obama è riuscito a ridurre la distanza nei confronti di Mitt Romney. Ve lo ricordo, Mitt Romney nei sondaggi si era portato in avanti addirittura di 4-5 punti sul voto nazionale. A questo punto Barack Obama è riuscito a ridurre il distacco a 3 punti. Secondo un sondaggio di Gallup, il presidente ha il 47% delle preferenze contro il 50% del candidato repubblicano Mitt Romney. Ecco, resta la curiosità per questo improvviso cambiamento a svantaggio di Barack Obama. Improvviso, ormai va avanti da qualche tempo, va avanti dal primo dibattito presidenziale. Le spiegazioni sono molte. Una l'ha data il New York Times di questa mattina, sostiene che Barack Obama in realtà si è fidato troppo di Bill Clinton e che Bill Clinton gli ha suggerito di attaccare Mitt Romney soprattutto sul suo conservatorismo. Secondo il New York Times questo è stato un errore, perché Barack Obama avrebbe dovuto tenere la sua campagna focalizzata sul fatto che Mitt Romney non era attrezzato per guidare gli Stati Uniti d'America. La campagna continua, oggi Barack Obama andrà addirittura in 4 stati. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E ritroveremo Mario Platero in America 24. Le polemiche per la sentenza di condanna degli scienziati per il terremoto dell'Aquila approderanno domani in Consiglio dei Ministri. Molto probabilmente il governo respingerà le dimissioni della Commissione Grandi Rischi, chiedendone il ritiro ai suoi membri. Sul terremoto intanto spuntano intercettazioni inedite. È il 9 aprile 2009, 3 giorni dopo il terremoto dell'Aquila. L'allora capo della Protezione Civile Guido Bertolaso telefona ad Enzo Boschi, l'ex presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, uno dei membri della Commissione Grandi Rischi condannati dal Tribunale dell'Aquila. Anche dopo il sisma, rivela questa intercettazione pubblicata sul sito di Repubblica, l'ordine di scuderia era tranquillizzare la popolazione. La verità non si dice, raccomanda Bertolaso a Boschi. Mi hanno chiesto, ci saranno repliche, scorte, come quella ieri. Ho detto, guardate signori, è inutile che mi fate queste domande, perché noi ci rifacciamo a quello che decide la comunità scientifica, quella vera. Io ho detto loro che la riunione di oggi è finalizzata a questo, quindi è ovvio che la verità, la vera motivazione non la si dice. Non si parla della vera ragione della riunione. Quali siano le vere ragioni di quella riunione non è dato sapere. In quei giorni, sottolinea il quotidiano, c'era molta preoccupazione sulla tenuta della diga di Campotosto in caso di una nuova forte scossa. Per queste frasi l'ex capo della Protezione Civile è attualmente indagato nel secondo capitolo del processo per il sisma. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora il caso dei vaccini anti-influenzali. Novartis ribadisce che i suoi vaccini anti-influenzali sono sicuri, nonostante le autorità italiane, ma anche svizzere e austriache, abbiano bloccato le vendite, ritirate 490.000 dosi solo nel nostro paese. Ieri il Ministero della Salute e l'AIFA, Agenzia Italiana per il Farmaco, hanno disposto il divieto immediato a scopo cautelativo della vendita e dell'utilizzo di 4 vaccini anti-influenzali, tutti prodotti dall'azienda. L'allarme è scattato dopo che nei sieri era stata individuata un'aggregazione proteica delle particelle bianche, ma Novartis sottolinea che queste particelle possono avvenire durante il processo di produzione del vaccino e che non c'è nessun impatto sulla sicurezza o l'efficacia delle dosi. Il fatto è che tutto questo avviene ad appena 2 settimane da quando la ditta Crusell aveva ritirato 2 milioni di fiale prima che uscissero dai magazzini per gli esiti negativi di alcuni test sui vaccini. Si teme ora che possano esserci ripercussioni sulla campagna anti-influenzale appena partita. Da domani sarà in funzione il numero verde del Ministero, il 1500, per avere informazioni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Valentina Furlanetto ha intervistato Francesco Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano. C'è una marea montante di negatività verso le vaccinazioni in genere, in particolare per l'influenza dopo il 2009, con la famosa pandemia che c'è stata, ma per fortuna non disastrosa. E quindi oggi questi 2 episodi, che in realtà sono episodi che invece dovrebbero essere visti in un senso opposto, ovvero di garanzia di qualità a tutti i costi, anche di far brutta figura se vogliamo, temo saranno letti facendo disamorare ulteriormente le persone dalla vaccinazione. Questo è un male, perché invece i vaccini e il vaccino antinfluenzale sono di dimostrata efficacia e di dimostrata sicurezza. Si apre oggi a Torino il Salone del Gusto Terra Madre in diretta. Paolo Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno da Torino. Ha aperto ufficialmente le porte ai visitatori questa mattina alla nona edizione del Salone del Gusto, da quest'anno per la prima volta integrato pienamente con Terra Madre, l'evento con cui Slow Food mette insieme le comunità dei piccoli produttori di cibo, contadini, pescatori, allevatori da tutto il mondo. È un'edizione molto ricca di appuntamenti, oltre 100 i paesi presenti, ha un'area di 80.000 metri quadri, 200 presidi Slow Food italiani, 120 internazionali, 400 comunità del cibo, 128 laboratori del gusto, un po' di cifre, ma c'è anche il grande orto africano realizzato dalla Fondazione per la diversità, biodiversità di Slow Food, che mostra la ricchezza delle colture autoctone del continente nero. Ieri la cerimonia di inaugurazione con il direttore generale della FAO al Palaolimpico, oggi il taglio del nastro con il ministro delle politiche agricole Mario Catania, che oggi incontrerà gli assessori regionali all'agricoltura, con cui parlerà del futuro della PAC, la politica agricola comune. Per l'Italia c'è una richiesta di tagli di 280 milioni, il governo punta però a ridurre questa quota. Per Carlin Petrini, presidente di Slow Food, il salone è una svolta, punta a diventare il più grande appuntamento dell'enogastronomia e dell'alimentazione del mondo. Resterà aperto fino a lunedì ed è tutto. Grazie a Paolo Piacenza. 43 milioni di danni allo Stato, citati in giudizio Bassolino e Bordon. Sentiamo. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Napoli un caso di ingente spreco di denaro pubblico nel settore delle bonifiche ambientali. È stato accertato un danno per l'erario di oltre 43 milioni di euro. Tanto è costata ai cittadini la più volte annunciata bonifica del litorale flegreo dell'Agro Aversano, che la Regione Campania, la cui giunta all'epoca era presieduta da Antonio Bassolino, affidò alla Iacorossi Imprese S.p.A. Nei giorni scorsi, al termine di una indagine della Procura della Corte dei Conti regionale nel settore delle bonifiche ambientali, è stato notificato un atto di citazione in giudizio per 17 persone, tra cui ex amministratori, compreso l'ex governatore della Campania Bassolino, un ex ministro Villar Bordon, un ex sottosegretario Raffaele Morese e alcuni professionisti. L'attività investigativa ha riguardato le vicende legate alla mancata bonifica e rinaturalizzazione dei siti inquinati dei due litorali, per le quali era anche previsto l'utilizzo di 380 lavoratori socialmente utili. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Poliziotti aggrediti all'interno dell'ufficio immigrazione di via Galileo Ferraris a Napoli. Una trentina di cittadini nordafricani si è presentata per chiedere il risultato del ricorso sul riconoscimento dello stato di rifugiati politici. Contro la bocciatura della richiesta, infatti, i cittadini stranieri hanno presentato appello alla commissione territoriale. Gli editori italiani, francesi e tedeschi si schierano per difendere il diritto d'autore. L'alleanza contro Google mira ad ottenere un giusto compenso per i contenuti dei giornali che finiscono sul portale. Ci spiega il perché al microfono di Giuseppe Borello, il direttore generale della Federazione Italiana Editori Giornali, Fabrizio Carotti. Il nostro obiettivo è semplicemente quello di tutelare anche online la proprietà intellettuale dei prodotti informativi. Parliamo in particolare dei motori di ricerca, utilizzano i contenuti editoriali per fare un'attività di business, per cui ci sembra necessario che il prodotto venga tutelato per vedere riconosciute anche da questi soggetti dei diritti che contribuiscono in questo modo a mantenere gli investimenti adeguati alla produzione di informazioni. Non spaventa magari un'eventuale rottura con i motori di ricerca? No, però per noi diciamo più che rottura è semplicemente far riconoscere che se c'è un'attività di business che viene svolta utilizzando contenuti di altri, chi lo fa riconosca che anche grazie a quei contenuti può fare un'attività, può fare business, può fare reddito. Tra l'altro il ragionamento potrebbe anche essere diverso: quanti utilizzerebbero quei motori di ricerca se non ci fossero i contenuti dei prodotti editoriali? Ed il pluralismo dell'informazione e del lavoro di molti giornalisti sono a rischio dopo la brutta notizia dell'imminente chiusura di 70 giornali dovuta alla crisi dell'editoria. Al microfono di Luisa Perona, parlando di informazione assistita, la preoccupazione del segretario della FNSI, Franco Siddi. Nasce per l'esigenza di arricchire il pluralismo italiano, per fare in modo che anche altre voci che non vivono della rete commerciale, di grandi interessi pubblicitari, economici e finanziari, possano proporsi nel contatto con il pubblico, allargando la sfera delle voci disponibili, soprattutto sul territorio ma anche in campo nazionale. 4.000 persone rischiano il posto. Saranno licenziati dunque i giovani precari, i collaboratori che lavorano a pezzo? In questi giornali lavorano colleghi che vivono col minimo di stipendio quando va bene, ci sono molti precari, molti collaboratori affezionati. Si va a cancellare una realtà viva di un giornalismo sofferto nella stragrande maggioranza dei casi. Poi qualche impresa ha deviato rispetto alle regole, ha fatto imbrogli, si sta lottando per disboscare queste realtà anomale e impure. E si è fatto molto proprio con l'iniziativa del sindacato dei giornalisti, ma evidentemente a Grillo questo non interessa, interessa lanciare una parola d'ordine, di rapido consumo. Il Festival della Scienza di Genova, da oggi al 4 novembre, festeggia la sua 10ª edizione dedicandola all'immaginazione. Il presidente della rassegna, Manuela Arata, al microfono di Adriana Fracchia. Non c'è essere più immaginifico dello scienziato, l'immaginazione è base dell'innovazione, quindi è quello di cui abbiamo bisogno per affrontare questa grande crisi. Cioè l'immaginazione è il nuovo, è il pensare oltre, è il pensare l'inimmaginabile, la conoscenza appunto ha un progresso, mentre l'immaginazione è libera, è coraggio, è apertura. È una parola che da tanto tempo volevamo mettere, quest'anno ci sembrava particolarmente azzeccata perché abbiamo bisogno di molta, molta immaginazione e di molta innovazione. Se c'è un mondo che è capace di guardare avanti, di immaginare altro, di essere creativo, fantasioso, immaginativo, è proprio il mondo scientifico. L'ospite di questa edizione sarà l'Europa. L'abbiamo dedicato all'Europa perché noi siamo parte dell'Europa. Poi siamo contenti di aver avuto il tempismo con il premio Nobel per la pace che è stato dato all'Europa. L'Europa sicuramente si sta rafforzando, la scienza è internazionale, la scienza europea è eccellente e deve avere sempre più coesione. È tutto per questa edizione curata da Daniele Biacchessi, in regia Paolo Corleoni. Il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. Giovedì giorno di uscite al cinema, da oggi in sala tra gli altri Io e te di Bernardo Bertolucci, La Palma d'Oro Amour di Michael Haneke, Le Belve di Oliver Stone. Per il cinema italiano, in un inizio stagione dagli incassi ancora troppo magri, Viva l'Italia di Massimiliano Bruno con Michele Placido, politico che dopo un malore comincia a dire solo la verità, e i suoi figli Raul Bova, Alessandro Gassman e Ambra Angiolini nel ruolo di Susanna, attrice raccomandata. Cioè, da un lato, dal punto di vista, non voglio diventare pesante, però sociologico, lei è una persona, sì, raccomandata, ricca, però cosa si gode di quello che ha? Nulla, perché è a detta di tutti un incapace, chiunque le ride dietro. Lei sa solo che deve dire io sono Susanna Spagnolo, e però il seguito è sti gran questo lo dicono tutti, pure quelli che non lo dicono nel film. Il padre non se l'è mai filata, la madre è vittima di questo uomo prepotente, anche che ha pensato che in quel modo poteva risolvere i problemi, quindi i figli, che li ha sempre vissuti come tali. Come fai ad arrabbiarti? Io penso che vedendo una roba del genere qualsiasi famiglia, anche con problemi economici, si sentirà un po' meglio, perché non si sta bene. Debutta in sala per ora a Cagliari Bellas Mariposas, film di Salvatore Mereu, applauditissimo alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del premio Schermi di Qualità. Il film è tratto da un libro molto amato dai sardi che Mereu racconta non aveva mai letto prima. Devo dire, cercando di rimediare una lacuna, perché in Sardegna Bellas Mariposas è un libro di culto, e il culto poi è aumentato dopo la scomparsa del suo autore. Quando poi l'ho letto sono rimasto folgorato, la grande bellezza, cioè la cosa che più ti conquista di questo libro è il fatto che così ti parli di cose terribili con una leggerezza, una levità, e niente, mi sono buttato a scriverlo, non avendo ancora la certezza di trovare le risorse, però con una preoccupazione che il racconto appartenesse soltanto alla letteratura, che non potesse essere travasato al cinema. Però secondo me nel racconto, la forza del racconto e del personaggio è tale che poi alla fine credo che ti conquisti. Io in fondo ho avuto in eredità una gran bella storia, ho fatto solo la parte più piccola. Sarà Quartet di Dustin Hoffman ad aprire il 23 novembre all'Auditorium del Lingotto, il 30° Torino Film Festival. Il film è l'esordio alla regia dell'attore 75enne. Concerto a sorpresa dei Rolling Stones questa sera a Parigi. Un'esibizione breve, secondo quanto annuncia il gruppo su Twitter, definendo l'evento un giro di riscaldamento. Lunedì gli Stones terranno sempre a Parigi un'esibizione privata organizzata da un fondo finanziario per i suoi clienti. In chiusura agli ascolti TV si ribalta la situazione della partenza della stagione nell'Access Prime Time. Ieri sera Affari Tuoi ha battuto Striscia alla Notizia 22,75% a 16,7. Con 4.258.000 spettatori e uno share del 15,16%, è sempre Rai 1 con la fiction Sposami a vincere la gara di prima serata. Su Canale 5 RIS Roma 3 Delitti Imperfetti 14,78%. 12,33 invece per la partita di Champions League Malaga Milan su Italia 1. Ed è tutto per la seconda edizione del GR Spettacoli. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.